Il punto di Stefano Folli. Dopo la terribile serata di sabato allo Stadio Olimpico di Roma, quello che non si deve fare è cercare qualche facile capro espiatorio, magari nelle forze di polizia. Servirebbe solo a premiare ancora una volta i violenti che hanno stravolto e ucciso il calcio italiano. L'orrendo episodio può invece essere un punto di svolta se lo Stato decide di tornare a essere davvero lo Stato nell'ambito dell'ordine pubblico. Il ministro dell'Interno vuole rendere permanente l'espulsione dei facinorosi dagli stadi, è il minimo, e sorprende che non fosse già così. Ma molto altro si può fare per sgominare una volta per tutte le organizzazioni dei tifosi, quelle che tutti sanno essere controllate in forme diverse dalla malavita. Non è una novità di oggi, tutti lo sanno, ma come sempre in Italia occorre il dramma o la tragedia per imporre la verità a chi di dovere. In Inghilterra i gruppi violenti, gli hooligans, furono battuti in un anno o due con assoluta inflessibilità. Perché da noi abbiamo dovuto aspettare i fatti di Roma per affrontare un problema già noto?